per forza inchiodare adesso i quadri a questo... Ma non è musica contemporanea, Drago! Credo asilo. Pensa a un numero da 1 a 9. Sì. Ok, moltiplicalo per 9. Difficilissimo. Dai, ma cosa è difficilissimo? Okay. Le tabelline. Adesso, è un numero a 2 cifre? Sì. Somma le 2 cifre tra di loro. Va bene. Ok. Sottrai 5 da questo numero che sì. hai. Sì. Ok. Adesso associa. Hai un numero, giusto? Giusto. Adesso, associando le lettere dell'alfabeto in questo senso, cioè A uguale 1, B uguale 2, sì. C uguale 3, eccetera. Sì. Dimmi che associa una lettera al numero che hai. Ce l'ho. Bene, ce l'ho, sì. Ok. Adesso pensa a uno stato europeo che comincia con quella lettera. Ok. Ok. Adesso pensa a un colore che comincia con la terza lettera dello stato. Ok. Ok. Adesso pensa a un grosso animale che comincia con la terza lettera del colore. Ce l'hai? Grosso, un grosso animale. Grosso animale. Grosso. Magari anche che non. Insomma, un po' esotico, però. Non mi viene in mente. Dai. No. Dai. Ok. Va bene. E cosa ci fa allora sto rinoceronte nero in Danimarca? Sarà lo zoo di Copenaghen? No. Chiederà asilo in Danimarca. Perché vuole scappare dall'Africa, vuole scappare dallo zoo italiano. Ho capito, ma perché in Danimarca? Ma perché in Danimarca si sta bene, hai i conti a posto e quindi tutta sta crisi non si sente. Sì, ma vacci tu a vivere in Danimarca con il rinoceronte. Tu è il rinoceronte. Sì, tutto questo razzismo sempre verso il nord Europa. Perché ma no? No? Ma dai, ma non ispira la Danimarca. Ci si annoia a morte in Danimarca. Cioè, il posto più divertente della Danimarca si chiama Skagen. Questo è molto divertente. È vero, cos'è? È tipo Rimini. Ma ci si annoia morti in Danimarca? Sembra una frase. Cos'è? Shakespeare, mi sembra. Amleto che diceva ci si annoia morti in Danimarca. C'ero io. Ma non è così. C'è allora... del marcio in Danimarca. Ah, già. A proposito di conti e di marcio, chiamiamo l'amministratore delegato. Sì, di conti se ne intende. Giusta, soprattutto di marcio. E poi sul marcio. Amministratore? Sono io. Buongiorno. Buongiorno, siamo Cappa e Drago dall'asilo, ci riconosce? Cappa e Drago, era da tempo che non vi sentivo. Sì, ma che fine avete fatto? Toponi, poi scusi, stiamo parlando di lavoro qui. Lo so, però c'è questo nuovo corso per cui bisogna essere molto equilibrati ed essere quindi amici e nemici al tempo stesso. Ecco, però vede, la sua parola e il suo pensiero sono fondamentali, perché qui siamo su Radio 24, quindi diciamo gli ascoltatori sono sensibili ai problemi gestionali, e chi meglio di lei che amministra tra le altre cose un asilo, un asilo, diciamo, infantile, insomma, che sì. può dare dei suggerimenti in questo periodo in cui le borse, possiamo dire, sono in disfatta, ecco, soprattutto la mia. Borse in disfatta. Io ho comprato una borsa di Piquadro. Si può dire Piquadro alla radio, è pubblicità? Boh, metteremo un beep. Metteremo un beep. Ecco, mettete un bel beep. Sì. E mi si è sfasciata sotto. Ecco. Però, contrariamente a come agivo in passato, dove mi recavo presso il rivenditore sfoderando tutta la mia aggressività, pretendendo il cambio dell'oggetto, i danni morali, tutte queste cose, ora non faccio niente. Ah, fatalismo, così. Insomma, siamo... Me la tengo rotta la borsa. Ecco, la borsa rotta. Bisogna la fare regalo così. Al primo nero che trovo fuori sulla pensilina del tram. Ma l'amministratore delegato, se mai il nero gliene vende una nuova, esatto. Per regalare quella vecchia rotta. Sovrapprezzo, tra l'altro. Falsa, però. Comunque, qui i bambini scalpitano, devono mangiare, devono studiare, insomma, bisogna trovare le risorse per far sì che questo paese, questo asilo, cresca. Come si presenta questo nuovo anno scolastico dal punto di vista economico-finanziario? Un assoluto disastro. Appunto, però, amministratore, lei deve dare dei consigli per uscire dalla crisi. Se no, amministratore, lei non amministra niente, se no. No, ma infatti io non sono chiamato a amministrare il nulla, si sa. Ma quale amministratore amministra qualcosa? Sì, amministratore è una figura... puramente simbolica. Sì, ma ogni mese però i soldi che arrivano non sono simbolici. A chi? A lui. Ogni cosa? No, soldi. Ogni mese i soldi che arrivano. Allora, tanto per cominciare, qua io ho cambiato anche questo sistema, i soldi li prendo ogni 15 giorni e non ogni mese. Giusto per non arrivare male alla fine del mese. È per quello che noi li prendiamo ogni 90, sarà per quello. Esattamente. parte. Ah, ho capito. Per poter dare all'amministratore delegato le energie e la soddisfazione necessaria a motivare gli altri, lui deve essere trattato meglio degli altri. E quindi io prendo gli stessi soldi che prendevo prima alla fine del mese, li prendo due volte. Ma come? Il mio stipendio è raddoppiato. Vabbè, amministratore, a parte le notizie sul suo stipendio, non ha delle istruzioni precise da darci? Dovete mettere tutti gli extracomunitari in un'unica stanza, sì. Tenere i bambini italiani separati in varie stanze, così vengono trattati meglio. Capito? Sì, vabbè, ho capito. Perché sono quelli che pagano alla fine. Sì, attenzione, sta cosa io qui. Devo frequentare di più l'asilo, ho capito che amministrare a distanza, sì. Fare la remote administration con voi non si può fare, perché non vi siete voluti. Beh, certo, non abbiamo diviso i bianchi dai neri, anche perché poi facciamo la fine di Borghese, veniamo poi indicati da tutti. Io vi avevo detto di farlo, allora non posso porre a dire che non posso più stare in barcavela, quanto mi pare, perché devo amministrare di persona l'asilo, non c'è niente da fare. Allora voi cosa mi servite? Ma che barcavela, amministratore? Ma quando mai è andato in barcavela? Beh, adesso sarà chiuso da qualche parte in uno stanzino in attesa di una riunione che teme tantissimo e le fa venire un'ansia pazzesca. Ma non è vero, guarda che l'amministratore delegato è uno dei promotori del Zen Management, no? Come si chiama? New Age Management. Ecco, New Age Management. New Age Management. Vogliamo così ribadire un po' in che cosa consiste il New Age Management? Ma in sostanza nel non fare niente, nello stare rilassati, molto calmi, e vivere in armonia con se stessi e con gli altri. Per vivere in armonia con se stessi e con gli altri non bisogna fare assolutamente niente, perché appena entri in contatto con qualcun altro ti incazzi subito. Capisci? Certo. È molto semplice. Prova a pensarci. Sì, ma lo fanno i monaci, non lo fanno gli amministratori delegati, che sono chiamati. Ma è proprio lì che vi sbagliate. Il vostro è un cliché. Voi pensate che l'amministratore delegato sia quello che proiettate voi con la vostra mente, lasciatemelo dire, bacata, parliamoci chiaro. Sì, però amministratore, qui noi non prendiamo lo stipendio, con chi dobbiamo parlare? Che qui ci pagano in ritardo. Parlate con Cattoni. Cattoni, ragionier Cattoni. Sì. Va bene, se non c'è Cattoni? Parlate con Vizzatti. Va bene, grazie. Bene. Grazie amministratore, la richiamiamo Cattoni. Poi. Cattoni e Vizzatti. Vizzatti. Con Vizzatti. Due T? 2Z. Administrador, é delegado, somos gratos que cada dia nossa fábrica é um carnaval. Administrador, é delegado, somos gratos que cada dia nessa fábrica é um carnaval. Cioè, io non capisco, mia madre fumava, ma io andavo a scuola sempre, cioè non ho mai fatto tante assenze. Ma cosa vuol dire? Invece una ricerca sviluppata da quelli del Massachusetts General Hospital dice che se i genitori fumano i figli si ammalano di più, saltano la scuola, costano di più. Come si chiama l'ospedale? Massachusetts General Hospital. Ma guarda che è una serie TV, Drago, non è? Sì. Sì, è General Hospital. Ma allora non è vera questa notizia. Ma tu dove l'hai letta? Io l'ho vista in TV, c'era un tizio in camice che diceva sta roba, diceva ai bambini. Ma intanto mentre lui diceva sta roba c'era l'infermiera che lo guardava negli occhi e gli diceva che in realtà lei era sua figlia e poi zoomavano su di lei. Giusto, ma come fai a saperlo? Please pass the milk, please. Please pass the milk, please. Please pass the milk, please. Ruffini, Saviano, Formigli. Cos'è? Perfino Fazio in Calcio. Deroga. Ah no, televisione. Fazio per fare Vieni via con me. Sì. Anche lui, quindi forse anche la Dandini. Mm. Ecco, questa è la lista dei personaggi TV che quest'anno cominceranno la stagione non più alla Rai, ma alla 7. Quindi fuga di cervelli dalla Rai. Infatti Minzolini resta al suo posto. Invece Mediaset non ha la fuga di cervelli. Sì, sì, c'è anche lei. La Parodi passa alla 7. Ho detto cervelli. Comunque finché c'è lui al governo, la 7 potrà agire da zattera di salvataggio anti lui. Sì. Ma quando lui se ne andrà, cosa succederà? Scommettiamo che tutti torneranno alla Rai uno per uno, compreso Mentana? Scommettiamo. Allora, appuntamento quando non ci sarà più lui. Ah, vabbè, allora figurati se ci sono io. All'asilo ti sta bene, ti imparan tante cose, la maestra ti vuol bene, ti fa sempre divertir. All'asilo ti sta bene, ti imparan tante cose, la maestra ti due volte. Ecco, 02 46 52 44 95. Però voi, cantate, no? Col metronomo, se no qua come si fa a stargli dietro? Scusa.